24 mattino estate con Irene Zerbini. L'ultima puntata, buongiorno, ben ritrovati. L'ultima puntata della versione estiva ritornerà lunedì. Alessandro Milan. Oggi ci concentreremo sugli ultimi fatti di cronaca. Da anni l'Italia sembra fallire laddove altri stati europei hanno raggiunto risultati più che soddisfacenti, cioè eliminare la violenza ultra e riportare le famiglie negli stadi. L'attacco degli ultra atalantini al ministro dell'Interno, Roberto Maroni, ha riportato in questi giorni l'emergenza in primo piano. Ricomincia il campionato, avvio dietro l'angolo, gli appassionati si dividono. Alcuni giudicano la tessera del tifoso una schedatura, altri temono che sia inutile. Proprio questo vi chiediamo questa mattina per il sondaggio di Bianconero alle 8:30. Ne discuteremo illustrando anche il modello inglese e cosa è stata fatta da quella parte una volta infestata dagli hooligans. Secondo voi, questa è la domanda, la tessera del tifoso è abbastanza per fermare la violenza nel mondo del calcio? Potete cominciare a votare sul sito di Radio 24, www.radio24.it. Ma prima cambiamo pagina completamente, perché dietro l'angolo un appuntamento ben più importante, quello con l'avvio della scuola. Ebbene, ci sono dei tagli che pesano anche sulla qualità della didattica. Ci sono delle proteste in corso, precari in sciopero della fame, saranno almeno 15-20.000, non è ancora stato quantificato, i professori e i maestri non di ruolo che non si vedranno riconfermare la supplenza annuale o fino al termine delle lezioni. E l'ultima speranza per questi precari è recuperare almeno le supplenze brevi, cioè quelle che i dirigenti scolastici, che una volta si chiamavano presidi per capirci, assegnano per malattie o aspettative dei professori di ruolo, oppure nelle indennità, nei contratti di disponibilità. Insomma, tutte misure che alcuni hanno giudicato una mortificazione della dignità di queste persone. Comunque, ieri su un quotidiano una lettera dell'ex presidente della Commissione Antimafia che parla di tagli dei precari nella scuola. E com'è possibile? Abbiamo pensato, leggendo questa lettera su Liberazione, che due mondi, la scuola e quello della lotta alla mafia, possano essere contigui. Come si sovrappongono? Lo chiediamo a lui, Giuseppe Lumia. Buongiorno, benvenuto e grazie per il suo tempo. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Una scuola di qualità non può essere realizzata tagliando. Lei sostiene, tra l'altro, in questa lettera che nel sud le scuole hanno un ruolo anche successivo, importante, forse non solo in meridione, ma soprattutto nel sud. Lei dice le scuole sono un avamposto delle istituzioni. Cosa significa? Significa che in questi anni abbiamo sperimentato che nella lotta alla mafia il versante culturale del sapere, della formazione, dell'educazione, della scuola è decisivo. Su questo versante abbiamo ottenuto i migliori risultati. Abbiamo seguito un po' l'esempio di Bufalino, questo grande scrittore che diceva: nella lotta alla mafia ci vuole un esercito di maestri. E questa idea ha dato dei risultati straordinari. Dove? In molti quartieri a rischio di tutte le città del sud, da Palermo a Catania, a Napoli, a Reggio Calabria, lì e degli insegnanti, dei professori preparati, seri, spesso precari, ma preparati, qualificati, si sono dati da fare percorsi di educazione alla legalità, lavoro il pomeriggio senza che ci sia la scuola al tempo pieno, quindi con molto molto volontariato, ha dimostrato che la scuola è il futuro del Mezzogiorno, la scuola è il futuro del nostro paese. Ecco perché bisogna ribaltare l'idea che si sta avendo, che il governo ha. Bisogna partire dalla funzione della scuola nel futuro del paese, della Sicilia, del Mezzogiorno, e da qui risalire al tema dei precari e dire che è una cosa incivile, non è di un paese moderno, avanzato, come in tutti i paesi moderni avanzati, dove si mette al centro il merito, la funzione educativa della scuola, tenere degli insegnanti in condizioni di precariato. Oppure, cosa ancora peggiore di questi giorni, è quello di tagliare e quindi impedire che le scuole possano svolgere questa funzione educativa e ritornare alle classi di 30 persone, e eliminare la possibilità di avanzare col tempo pieno, né sud di tempo pieno. Cioè lei prevede un sovraffollamento e uno scadimento della qualità. Guardi, un sovraffollamento impedisce quello che in tutti i paesi moderni si è ormai asserito, che la personalizzazione del percorso educativo è centrale. Con 30 alunni il percorso educativo è scadente, di massa, è spersonalizzato, è burocratizzato, al di là della buona volontà del docente. Senatore, facciamo parlare anche un insegnante, con noi si chiama Luca Piergiovanni, tra l'altro il miglior insegnante d'Italia, quindi siamo ben fieri che si sia alzato a quest'ora. Per noi, anche perché forse di occasione di alzarsi a quest'ora per andare a scuola ne avrà poche. Luca Piergiovanni, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. Lei è precario, con tutto che è stato riconosciuto come il migliore insegnante d'Italia, e insegna alle medie e non sa se gli rinnoveranno l'incarico. Quando lo saprà? Io lo saprò, come tanti altri, il 31 di agosto. Quindi proprio all'ultimo momento, perché poi dopo noi entriamo in servizio il 1° di settembre, quindi e così è ogni anno purtroppo. Diceva Giuseppe Lumia che prevede uno scadimento della qualità, ma lei da insegnante vede un'equazione, scuole affollate, qualità minore? Sì, sicuramente. Se noi vogliamo creare un paese competitivo, educare bene i nostri giovani, che poi saranno quelli che andranno a formare la società del domani, bisogna che la scuola sia di qualità, in questo caso non può esserlo, perché insomma noi ci troviamo in grande difficoltà con 30 ragazzi in classe, di cui diversi che magari hanno bisogno del sostegno non ce l'hanno, perché anche lì scarseggiano gli insegnanti di sostegno, o ragazzi stranieri che si ritrovano emarginati all'interno della classe perché non possono, cioè non conoscono bene la lingua italiana, ecco, e anche lì, per dire, occorrerebbero dei corsi prima da far fare loro, prima di metterli nella classe. E insomma, le problematiche sono tantissime e tutti i pedagogisti del mondo ce lo insegnano. Si riesce ad educare bene quando gli alunni non sono così tanti. Lei in quale provincia insegna esattamente? Dove insegna? Io a Como. A Como. Quante cattedre sono state tagliate nella sua provincia? Notizia di pochi giorni fa, alle scuole secondarie superiori di secondo grado sono state tagliate ben 118 cattedre. Sono tantissime. Io, per dire, soltanto nella mia scuola due colleghe di ruolo da oltre 8 anni hanno perso il posto, e quindi per loro, essendo di ruolo, chiaramente verrà trovata una cattedra che però crea a loro stesso disagio, perché magari 8 anni, 10 anche più, che lavorano in quella scuola, no? Il rapporto con i colleghi, i progetti che hanno avviato, anche per loro si interrompe. Alcuni dati: in tutta la Campania, la Puglia, la Sicilia, in 27 province non si effettuerà neanche un'assunzione nella scuola primaria e minime invece nella secondaria. A Napoli saranno solo 44 i docenti precari a firmare un contratto per il ruolo, a Milano 46, a Firenze 27, a Torino 25, a Roma 69. Potremmo continuare di questo passo, ma le chiedo, senatore, c'è la necessità comunque di contenere i costi, la scuola dunque non va riformata? Senz'altro può essere riformata, i costi vanno senz'altro razionalizzati, ma in tutta Europa, pensiamo ad esempio alla Germania, che in pochi mesi ha raggiunto un livello competitivo eccezionale nelle difficoltà economiche mondiali, il suo PIL è schizzato al 2,6% del PIL, lì i tagli li hanno fatti, ma hanno investito sulla scuola e sull'università e la ricerca. Ecco, è un problema di priorità e di intelligenza, di forza, di capire che il futuro del nostro paese, il futuro del Mezzogiorno, per quanto mi riguarda, della mia regione, della Sicilia, ma si può dire di tutto il nostro paese, sta in questo binomio: scuola, qualità, capacità di investimento. E i nostri professori sono un grandissimo patrimonio di esperienza, di qualità, che andrebbero messi nelle condizioni di fare bene il loro lavoro, lasciandoli in una condizione di precariato, addirittura facendoli diventare disoccupati, si perdono opportunità di futuro, di competitività, di crescita del nostro paese, che da stupidi farlo. Senta, ma lei si aspetta che questa sua riflessione sulla scuola verrà accettata in Parlamento in maniera trasversale? Quando discute di queste cose, pensa a delle barricate ideologiche o può contare, secondo lei, sulla comprensione anche dall'altra parte? ho imparato nella lotta alle mafie che le appartenenze spesso dividono, ho imparato nella lotta alle mafie che le buone unità vanno sempre ricercate. Ecco perché anche su questa vicenda, su questa importantissima priorità, quella della scuola, bisogna ricercare la buona unità, mettersi insieme, trovare i punti di contatto e trovare delle soluzioni. Ad esempio ne propongo qualcuna. Innanzitutto nel Mezzogiorno scuola a tempo pieno, una buona scuola a tempo pieno, una scuola a tempo pieno che investa sui nostri territori, sui nostri ragazzi, e poi fare in modo che le scuole private, che hanno la loro piena legittimità a svolgere la loro funzione, quando utilizzano denaro pubblico debbono selezionare il loro personale, sia il personale docente sia quello amministrativo, dalle graduatorie e dai concorsi pubblici che si fanno. Le scuole private rivendicano dal loro punto di vista una funzione pubblica, visto che questa funzione pubblica gli è stata legittimamente riconosciuta, è bene che possano anche loro sottostare alle regole di trasparenza e di selezione degli insegnanti attraverso anche graduatorie che sono già quelle in atto, e in più fare in modo che questo personale sia stabilizzato, si tolga assolutamente il precariato. Il nostro paese dica chiaramente: su alcuni settori dobbiamo fare dei sacrifici senza precedenti, sulla scuola, sull'università e sulla ricerca dobbiamo investire. Visto abbiamo in onda il miglior professore dell'anno, un insegnante di scuola media, eppure anche questa patente, diciamo così, di qualità non gli basta a garantire che il suo talento, le sue capacità vengano poi sfruttate dai nostri ragazzi quest'anno. Sì, infatti il paradosso è questo: quando si pensa in Italia precariato si pensa magari a persone poco qualificate, invece il paradosso è che noi abbiamo il fior fior delle professionalità, delle qualità, abbiamo persone che sono precarie dopo 15 anni, 20 anni di insegnamento nella scuola italiana, con dei risultati straordinari. Ecco perché dobbiamo mettere al centro il merito, dobbiamo mettere al centro la funzione qualitativa della scuola italiana ed eliminare questa condizione di precariato che è assurdo, che è stupida, che è improduttiva. Grazie a Giuseppe Lumia, già presidente della Commissione Antimafia, oggi componente. Luca Piergiovanni, la scuola al nord, in conclusione, ha, secondo alcuni, una situazione di privilegio, nel senso non ha quelle emergenze del meridione, ma è sempre vero? Beh sì, sicuramente sì. Io, per dire, giorni fa discutevamo un altro programma sul discorso meritocrazia, ma anche quello è un po' difficile da applicare, perché comunque al sud ci sono situazioni diverse, insomma più difficili, diciamo così, da gestire. È certo che, come diceva il senatore, bisogna cooperare tutti insieme, assolutamente, per il bene della nostra scuola, cioè questo è un discorso apolitico, perché è un bene prezioso per una nazione. Se vogliamo veramente creare un paese che abbia un futuro, bisogna assolutamente assimilare questo concetto scientifica nella scuola. Sì. Grazie anche al professor Luca Piergiovanni. Ci fermiamo per ora. Luca Piergiovanni ha vinto il premio insegnante dell'anno, è precario e non sa se gli rinnoveranno il contratto. Intanto però si spendono cifre che vi illustreremo nel corso della trasmissione, veramente esose, per la pulizia, per il mantenimento dell'ordine intorno agli stadi quando scatta il campionato, e anche quest'anno non ci sottrarremo a questo appuntamento così costoso per la collettività a causa della violenza ultra. Abbiamo avuto un altro increscioso episodio, vi abbiamo chiesto oggi sul sondaggio: basta la tessera del tifoso per fermare la violenza nel mondo del calcio? Votate sul sito www.radio24.it. 35 minuti dopo le 7, ancora buona giornata da Irene Zerbini, con me Deborah Rosciani. Velocissimi oggi perché dobbiamo lasciarti il tempo per il tempo leggere vola. Tutti questi quotidiani. Esattamente, però insomma io approfondirò anche alcuni temi, i temi che tu poi approfondirai nei tuoi spazi di approfondimento. Grande spazio alla scuola, questa mattina su molti quotidiani pare che il liceo classico non piaccia più, stanno crollando le iscrizioni alle prime di questa scuola, c'è il boom per i linguistici, però forse anche questo è buono, perché come tu ci insegni, visto che hai dei figli multilingue è bene insomma che ci si sappia muovere per il mondo in futuro. Io invece, che sono un po' più caprona, so quanto sia difficile andare in giro e magari non avere una perfetta padronanza con la lingua. Un altro quotidiano invece... Se tu sei capra, io raglio. No, vabbè, con le lingue sono in difficoltà. Mamma, ho perso la voglia di studiare, invece intitola La Stampa, perché a quanto pare c'è questa ricerca americana secondo la quale effettivamente si fa molta fatica a passare molte ore sui libri durante la giornata. Bisognerebbe anche lì trovare un metodo per saper studiare. Insomma, tante cose interessanti. Fiat, la tessera del tifoso, partirò anche da quello, Irene. A tra poco. A tra poco, dunque, la rassegna stampa con Deborah Rosciani. In primo piano. E allora, buona giornata da Deborah Rosciani. Riapriamo questa giornata insieme dando un'occhiata ai quotidiani in edicola oggi, ai temi che mettono in primo piano. In realtà oggi, dopo le dichiarazioni di ieri al meeting di Comunione e Liberazione dell'attesissimo Sergio Marchionne, l'amministratore delegato di Fiat, quasi quasi che la politica passa in secondo piano. E poi ampio spazio a questo tema di approfondimento che appunto sarà al centro anche del sondaggio della nostra Irene Zerbini. La tessera del tifoso inizia domenica il campionato e sarà sicuramente proprio in virtù di questa iniziativa del Ministero dell'Interno un campionato caldissimo quest'anno, già lo immaginiamo per tanti motivi. Allora, noi cominciamo a dare lettura delle prime dei quotidiani, cominciando con il Sole 24 Ore, perché il tema centrale di oggi, che probabilmente continuerà ancora a far parlare di sé a lungo, è il manifesto di Marchionne, così il Sole lo definisce. Ieri l'amministratore delegato di Fiat ha fatto la sua comparsa molto eclatante alle meeting di Comunione e Liberazione a Rimini. Era previsto un certo tipo di intervento, ovviamente con tutte le polemiche che ci sono state sulle vicende di Melfi degli ultimi giorni. Marchionne, appena arrivato, ha chiarito: io dovevo parlare di una cosa, ma le vicende, l'attualità mi impongono di virare completamente il tenore del mio intervento. E allora ecco la sintesi di ieri del Sole 24 Ore. È finita l'epoca del conflitto padroni operai. Dal meeting di Rimini Marchionne chiede un patto sociale per condividere gli impegni, le responsabilità e i sacrifici per dare al Paese la possibilità di andare avanti. In riferimento alla vicenda di Melfi, Marchionne accetta la richiesta del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che ieri ha espresso apprezzamento per lo sforzo Fiat di trovare una soluzione al caso dei tre operai. Ma nei fatti il manager, che ha anche escluso la vendita di Alfa Romeo, non cede. La Fiat ha rispettato la legge, abbiamo bisogno della garanzia che gli stabilimenti possano lavorare in modo affidabile. E poi uno sfogo: non chiedo stima, ma almeno rispetto. Ricevo complimenti per il turnaround di Fiat e per l'operazione Chrysler ovunque, fuorché in Italia. Non è la prima volta che Marchionne si sente un po' frustrato per questo. E mentre sul caso Melfi il giudice ha convocato le parti, dal fronte sindacale è arrivata la risposta a Marchionne del segretario della CISL Bonanni: sì, ad una nuova alleanza con le imprese per riformare il paese. Anche il segretario della CGIL Epifani si dice pronto ad incontrare Marchionne, ma per spiegargli perché sbaglia. Un altro argomento che il Sole mette in prima pagina: i contratti a chiamata, centropagina, sono oltre 110.000, corre il lavoro a chiamata nonostante la crisi economica. Nel 2009 il job on call ha coinvolto, secondo i dati Istat, 111.000 addetti, con un balzo del 75% circa rispetto al 2007. Si tratta prevalentemente di operai, impiegati nell'alberghiero e nel commercio, spesso in piccole imprese nel nord-est, mediamente utilizzati per una trentina di ore al mese e con un salario lordo di 10 euro l'ora. Le imprese che vi hanno fatto ricorso sono quasi raddoppiate a 88.000. In centropagina, sempre del Sole 24 Ore, una foto bellissima di pianeti. La NASA, c'è un altro sistema solare. La NASA ha annunciato ieri la scoperta dei primi due pianeti multipli che orbitano intorno alla stessa stella. Intanto l'European Space Observatory si è imbattuto in un sistema solare super popolato, 5 pianeti, forse 7. Il fogliettone di prima è firmato da Gianni Trovati: l'eccesso di velocità rimane la regina delle multe. Il nuovo codice ha debuttato ad agosto con un'altra impennata delle multe per eccesso di velocità, che sono cresciute del 22% rispetto all'agosto scorso. In sostanza, il messaggio di questo articolo è che, nonostante il codice sia molto stringente, appunto con le nuove norme molto più severo, in realtà gli automobilisti continuano ad essere molto indisciplinati e nessuno ha paura a continuare a viaggiare appunto a velocità altissime. L'editore dell'economista Elsa Fornello sulle pensioni dei professionisti: casse e professioni per pagare le pensioni, il piccolo non è bello. Tra l'altro, all'interno del Sole Marchionne venne definito il manager umanista che conquista Comunione e Liberazione, poi ci sono ampi stralci, come fanno anche altri quotidiani del suo intervento di ieri: resistere al cambiamento porta al declino. Andiamo alla prima del Corriere della Sera, ancora su Marchionne: serve un nuovo patto sociale, basta lotta padroni operai, pronto a vedere Epifani, il Corriere della Sera enfatizza ancora l'evoluzione della vicenda della sorta di aggressione di due sere fa al ministro degli interni Roberto Maroni. Allora titola il Corriere: l'ira di Maroni sugli ultra, non ne tollererò altri assalti. Questa la reazione all'agguato dei tifosi dell'Atalanta, linea dura del ministro degli interni contro gli ultra dopo l'assalto di almeno 400 supporter dell'Atalanta armati di spranghe e bottiglie Molotov alla Bergenfest. Non si illuda chi pensa che torneremo indietro rispetto a quanto abbiamo deciso, siamo pronti a rispondere a questi violenti che certo non posso definire tifosi e a rispondere alle loro provocazioni. Si sapeva da almeno due giorni che gli ultra avrebbero scelto la festa della Lega Nord per protestare in maniera eclatante contro la tessera del tifoso. Dal Viminale, i responsabili del controllo del territorio avevano predisposto l'invio di poliziotti di rinforzo per garantire la sicurezza della manifestazione e dei tre ministri inviati al dibattito, ma a quanto pare non è servito a niente. In primo piano sul Corriere anche l'Andrangheta sfida lo Stato con una bomba, poi vi racconterò appunto i dettagli dell'ordigno che è stato fatto esplodere nell'atrio della casa del procuratore generale di Reggio Calabria Salvatore Di Landro. Adesso andiamo ai dettagli. Per quello che riguarda l'editoriale sul Corriere della Sera, è stato affidato a Sergio Romano proprio sulle vicende Fiat, su Sergio Marchionne, il suo rapporto con Barack Obama e le motivazioni per cui non può cedere sul caso Melfi, proprio anche per rispondere agli americani della gestione di questa azienda. Allora, vi dicevo, il Corriere, vi leggo cosa è successo a Reggio Calabria, anche se lo avete sentito nel nostro giornale radio. La 'ndrangheta stavolta è stata più precisa: la minaccia di morte al procuratore generale di Reggio Calabria Salvatore Di Landro l'ha recapitata a casa, un pacco con polvere nera, una miccia un po' lunga, appena il tempo di fuggire, forse in moto e in un boato, è esploso il citofono, il portone e i vetri dell'appartamento del magistrato al secondo piano di una palazzina bianca e rosso mattone nel quartiere Caserta. Che Di Landro fosse obiettivo sensibile lo sapevano tutti. Il 3 gennaio due motociclisti avevano già recapitato un ordigno alla procura generale, l'avvertimento ai PM locali che seguono i palermitani. In molti giornali naturalmente stamattina spiegano le motivazioni per cui ci sarebbe stata questa nuova minaccia, più che minaccia, insomma, molto molto forte al procuratore Di Landro. Il tempo corre, noi andiamo alla prima di Repubblica. La Fiat vuole cambiare, l'Italia no, la sfida di Marchionne. Napolitano, nessuno si sottragga al confronto, ma enfatizza anche l'evoluzione delle vicende politiche. Repubblica in prima: guerra fra Berlusconi e Bersani, il premier propone un'ammocchiata. Scontro fra il presidente del Consiglio Berlusconi e il segretario del PD Bersani, che ieri, lo ricorderete, su Repubblica aveva proposto la creazione di un nuovo ulivo per battere il cavaliere alle prossime elezioni. Il premier bolla l'iniziativa come una mucchiata che ricorda il vecchio teatrino della politica di cui gli italiani sono stufi. La risposta del leader democratico: è lui che guida una mucchiata sempre più rissosa, basta con questo governo del manganello. E Repubblica ospita anche un intervento di Romano Prodi, come fa anche un altro quotidiano: bravo Pierluigi, ci voleva proprio, ma adesso bisogna passare subito ai fatti, nei rapporti con la nostra gente, con le altre forze politiche, soprattutto nella capacità di contrastare il declino dell'Italia. Il confronto è su chi sul serio sa rivitalizzare il sistema paese, non è solo il problema Berlusconi, il futuro è di chi sa dipingere e subito dopo costruire un futuro per l'Italia. Questo appunto Romano Prodi, che ha molto apprezzato le parole scritte da Bersani ieri su Repubblica. Due interviste proposte dal quotidiano appunto Repubblica, una al Pier Ferdinando Casini, che apre all'alleanza sì al dialogo, non si può tornare alle urne con questa legge elettorale, poi un'intervista al neo vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Vietti, Michele Vietti: il processo breve va modificato, ricucirò gli strappi sulla giustizia. Questa appunto è un'intervista di Liana Milella sul caso P3. Il CSM difenderà la credibilità dei giudici. In primo piano. Ancora buongiorno da Deborah Rosciani, ritorniamo insieme per la rassegna stampa di questa mattina, riprendendo dal quotidiano di Torino La Stampa, guidato da Mario Calabresi. Un patto sociale per l'Italia, Marchionne, da Rimini basta conflitti opera ai padroni, Napolitano apprezza lo sforzo, violenza ultra pugno di ferro del Viminale, subito un decreto sicurezza, questo è il tema di approfondimento tra po' del sondaggio bianco-nero con Irene Zerbini. In prima pagina anche una foto terribile, ancora si ritorna in Pakistan, questa terribile emergenza umanitaria sulla quale molte organizzazioni umanitarie chiedono di tornare ad accendere, a puntare un riflettore. Minacce Taliban, sono aiuti bloccati in Pakistan, allarme dell'intelligence occidentale, i fondamentalisti vogliono colpire i convogli umanitari. C'è tutta la ricostruzione anche sulle pagine della Stampa, naturalmente, della nuova giornata politica che si è vissuta ieri, il messaggio di Silvio Berlusconi ai promotori della libertà, i politici di professione e i loro giornalisti di riferimento parlano di ammucchiate incerte ormai fuori dal tempo, basta con i teatrini e le chiacchiere, indietro non si torna, sarebbe come lasciare PC e iPhone per l'abbecedario. C'è una nuova bufera intanto, la segnala La Stampa, sul direttore del TG1. Augusto Minzolini, che ha rilasciato un'intervista a Uno Mattina su Rai 1. Secondo il direttore del TG1, Berlusconi ha rivoluzionato la politica italiana. Prima i governi duravano in media un anno e mezzo, ora durano di più e c'è una politica più moderna. Quanto alla sinistra, Minzolini ha tirato in ballo Massimo D'Alema, gli è mancato il coraggio, il governo D'Alema si bloccò perché i suoi non lo seguivano. La sinistra italiana deve fare un profondo cambiamento. Ovviamente dichiarazioni che hanno suscitato subito un vespaio di reazione. Andiamo avanti per quello che riguarda l'attentato al procuratore generale Reggio Calabria, appunto Salvatore Di Landro. La Stampa ha inviato un inviato, appunto Guido Ruotolo. Pago, ha detto Di Landro, per aver chiuso gli sconti ai boss. Non sono l'arcangelo Gabriele della giustizia, ma questo che gestisco, dice, era l'ufficio saldi processuali. Da Repubblica ritorno un attimo solamente per segnalare che anche Repubblica, come molti altri quotidiani, ricorda che non ci sarà nessuno sciopero a fine agosto sulle navi Tirrenia. I 20.000 passeggeri che hanno già prenotato un biglietto potranno partire senza intoppi, una tregua. A questo punto se ne riparla il 6 settembre a tavolo convocato dal ministro dei trasporti Matteoli per fare un punto su questa estremamente problematica situazione, ma quantomeno a questo rientro dalle vacanze tutti i passeggeri di questi traghetti potranno essere più tranquilli. Lunedì e martedì. Il titolo della prima del Manifesto, stupenda la scelta secondo me, Falce e Marchionne, fine del conflitto fra capitale e lavoro, il proclama di Marchionne detta le regole del medioevo globale, accusa gli operai e fa scattare l'applausometro di Comunione e Liberazione, botte e risposta con il Quirinale, Napolitano lo richiama al confronto, la CGIL parla di oltranzismo. L'Unità, cacciamo il caimano, questo è il titolo della prima del quotidiano guidato da Concita De Gregorio, a cui oggi è affidato anche l'editoriale sulle vicende politiche del nostro paese, un richiamo appunto alla sinistra, a Bersani. Penso, vi leggo solamente le prime righe, e in questo credo di somigliare a una moltitudine di persone che ancora guardano l'opposizione politica con qualche speranza, che la gara d'azzopparsi reciprocamente dei leader politici che l'opposizione incarnano sia la principale causa di disaffezione, in qualche caso di disgusto, comunque di insofferenza da parte di chi guarda. Andiamo invece da tutt'altra parte politica, le prime pagine di Libero e del Giornale, e oggi è Libero a cavalcare i segreti finanziari della famiglia di Elisabetta Tugliani, la compagna di Gianfranco Fini, le bugie di Elisabetta, il tabaccaio della schedina vincente del Super Enalotte, la venditrice di un terreno, oggi parte del patrimonio di famiglia, smentiscono la signora, è giunto il momento di spiegare come ha messo da parte 20 milioni di euro. Peraltro Libero anticipa anche un'esclusiva di Panorama di oggi, sarebbe stata rintracciata una vecchia proprietaria delle terre di Capranica Prenestina, oggi di proprietà della famiglia di Elisabetta Tugliani. I soldi, questa signora avrebbe detto, me li diede l'ex patron del Perugia, 60 milioni in contanti. Il Giornale invece, la grande fuga di Fini, lo spettro di Monte Carlo, dopo lo scandalo della casa dell'ex leader di AN, della casa, l'ex leader di AN è sparito, ieri doveva parlare di etica ma giustamente ha rinunciato, così la linea politica la danno i Bocchino e i Granata e nel partito appunto cresce il malumore. In prima, sul giornale, c'è una foto di Oriana Fallaci, c'è un giallo sull'archivio della più famosa scrittrice italiana nel mondo, morta nel 2006. Un sito internet ha messo in vendita appunti e lettere della scrittrice. Se riesco, vi approfondisco anche questa vicenda che ci interessa, perché insomma molti di noi amano Oriana Fallaci, non tutti per la verità, però è comunque una cosa abbastanza curiosa. Andrei alla prima del Messaggero. Marchionne, serve un patto sociale. Napolitano, ora nessuno si sottragga al confronto. I commenti affidati ad Oscar Giannino, la via obbligata per difendere il lavoro. Diodato Pirone, penali sui micro scioperi, così cambia il contratto. Poi sulla politica, il nuovo Ulivo trova consensi, scontro Berlusconi Bersani, e il Messaggero ospita l'intervento di Romano Prodi, l'olio dei monaci e i nuovi innesti. Per alcuni abbastanza anche eclatanti fatti di cronaca di oggi, ho scelto proprio il Messaggero, vi racconto quello che è in prima pagina. Francesca, morire a 27 anni per una sniffata col fidanzato. Commessa, 27 anni, è morta per un'overdose di cocaina, sniffata insieme al fidanzato. L'altro pomeriggio erano in casa di lui nel quartiere Boccea a Roma. Nessuno avrebbe mai immaginato che quella ragazza acqua e sapone, affabile e precisa sul lavoro, consumasse cocaina. Il fidanzato, l'ho vista che respirava a fatica, è diventata cianotica, poi è caduta senza sensi sul letto. Un'indagine lampo, poche ore dopo la morte, è stata arrestata l'amica Pusher, un'impiegata di 26 anni, a far scoprire il contatto fra le due, gli SMS. La Pusher ha confessato: io sniffo e anche per questo spaccio mi ci pago il vizio. La coca potrebbe essere stata tagliata male. Un altro caso clamoroso di violenza domestica, calci alla moglie davanti ai figli, arrestato Francesco Porzio, oro olimpico pallanuoto, campione a Barcellona. Calci alla moglie davanti ai figli, arrestato l'oro olimpico. La donna è in ospedale, una terribile nuova vicenda di violenza domestica. C'è un vero e proprio shock a Napoli, dove la famiglia abita, e il Messaggero, prendendo spunto da questa vicenda, parla appunto del fenomeno della violenza sulle donne che non si arresta. L'inferno domestico, un incubo vissuto da quasi 7 milioni di donne. Ne botte, silenzio, solo un caso ogni 10 viene denunciato. Un'altra vicenda, ve la voglio segnalare sempre dal Messaggero perché mi ha colpito parecchio. Sentite cosa è successo. Lungo il litorale adriatico a Civitanova Marche, una zona che io conosco molto bene perché sono di quelle parti, un episodio di ordinario razzismo e bullismo sulle spiagge di Civitanova Marche nell'indifferenza generale. Vittima un giovane immigrato originario del Bangladesh che ieri pomeriggio è stato insultato e preso a calci da un gruppo di ragazzini di circa 10-11 anni davanti ad alcuni testimoni, fra i quali una cronista. Il tutto si è svolto sotto gli occhi di un gruppo di adulti e anche dei genitori dei ragazzi, che si trovavano cinque file di ombrelloni più indietro. Questi non solo non sono intervenuti per fermare l'episodio di bullismo, ma ridevano del comportamento. Nessuno delle decine di bagnanti presenti nello stabilimento sembrava essersi accorto dell'accaduto. In tutto questo, l'immigrato, vittima di questa faccenda, non ha neanche voluto denunciare niente alle forze dell'ordine. Ecco che cosa ci troviamo a commentare la mattina. Rapidamente, la prima del Riformista, resistenza ultra. Guardo, quindi sta rientrando Irene Zerbini in studio e quindi gli offro sul piatto d'argento il tema di approfondimento del suo sondaggio. Anche Riformista, cara Irene, titola sulla tessera del tifoso: negli stadi si prepara l'autunno caldo dell'ordine pubblico. A Bergamo è solo cominciata l'azione anti-Maroni, così è nato il movimento trasversale che si ribella la tessera. Il campionato inizia nel caos ordine pubblico e il 5 settembre corteo a Roma. Si mettesse tanta energia per altre tematiche. Esatto. Il modello inglese è diverso, lo si cita sempre come esempio di eccellenza. Lì sono riusciti dove l'Italia fatica, cioè riportare le famiglie negli stadi, eliminare la violenza degli hooligans, e parleremo proprio di quello con un esempio dall'Inghilterra nel corso di Bianco o Nero. Intanto grazie. Grazie, mi sono dimenticata di dire che oggi ci sono anche in edicola Panorama e L'Espresso. Peraltro Panorama, visto che delle attività del Viminale parliamo, ha anche un'intervista in esclusiva al ministro Maroni. E noi invece avremo il suo sottosegretario Alfredo Mantovano nel corso di Bianco Nero per parlare di queste questioni di sicurezza legate al calcio. Ti ritroveremo poi a Salvadanaio. Alle 12 oggi facciamo il tagliando autunnale ai nostri risparmi, cara Irene. Che brutto appuntamento. Dovrebbe durare poco, vista la quantità dei risparmi accumulati. Sarai breve, immagino. Grazie, grazie a Deborah. Buona giornata a tutti, grazie. E ritroverete per la rassegna stampa Alessandro Milan da lunedì. Tra pochissimo le news, poi ritorneremo con i corrispondenti dall'estero. Moltissime le lettere, le sollecitazioni in questo senso che abbiamo ricevuto nel mese d'agosto, per cui c'è una sorpresa per la puntata finale. E torneremo poi alle 8:30 con il sondaggio. Potete votare www.radio24.it. La domanda di oggi: basta la tessera del tifosi per fermare la violenza nel mondo del calcio? Ancora ben ritrovati da Irene Zerbini, 18 minuti dopo le 8, l'appuntamento con i corrispondenti stranieri, corrispondenti della stampa estera che vivono in Italia, ultima puntata. Li abbiamo incontrati durante l'estate per un giro del mondo di opinioni nell'Italia come giornalisti e come residenti. Oggi, per quest'ultima puntata, un estratto di alcune delle chiacchierate. Ve lo proporremo tra poco. Prima però voglio ricordarvi la questione che affronteremo a Bianco o Nero alle 8:30 in punto, la tessera del tifoso. Secondo voi basta per arginare la violenza negli stadi, visto che da anni l'Italia sembra fallire dove gli altri stati europei hanno raggiunto risultati più che soddisfacenti, cioè eliminare la violenza ultra e riportare le famiglie negli stadi? Votate su www.radio24.it. E per tornare ai corrispondenti stranieri, la prima voce che sentirete è quella di Stevan Ubovic, è un serbo. All'inizio d'agosto, quando l'abbiamo intervistato, Marchione aveva appena annunciato la produzione della monovolume Fiat in Serbia e ci siamo chiesti come avessero accolto gli operai serbi e la popolazione questo annuncio che veniva dall'Italia. Sentiamo. Questo entusiasmo si è verificato, però d'altra parte si è verificata anche una certa solidarietà con colleghi italiani, precisamente con operai in Italia, perché più di 10 anni operai in Serbia, cioè di fabbrica di Kragujevac, vivono un disagio per via di disoccupazione, e in questo modo loro provano una certa solidarietà con suoi colleghi in Italia, quindi non è stata tanta festa lì in Serbia. Per questo, diciamo, la Fiat e colleghi italiani sono sempre stati visti come amici e collaboratori, non come concorrenti. Prima collaboravano e adesso alla fine sembra come se forse qualcuno vuole rubare lavoro, cioè posti di lavoro, però tanti operai a Kragujevac, che sono state fatte tante interviste negli ultimi giorni, hanno espresso, diciamo, oltre solidarietà che ho accennato varie volte, e non desiderano che colleghi italiani perdano lavoro in Italia e poi loro ottengono questi posti di lavoro. Questa è stata opinione di maggior parte dei operai in Serbia. Buongiorno Aaron. Buongiorno, buongiorno. Aaron Mains è un giornalista che scrive per più testate, è americano, e i suoi articoli li potete leggere sul Wall Street Journal, sul Washington Post, sul New York Times. Ho dimenticato qualcosa, Aaron? Ma no, direi di no. Hai un figlio, quindi hai a che fare anche col sistema scolastico italiano. E cosa hai notato nella scuola di tuo figlio? Ma allora, nella scuola di mio figlio noto che hanno pochi materiali, che gli mancano proprio la materia prima spesso, per problemi economici, credo. Poi altre cose che noto, sicuramente c'è un'attenzione, un rapporto molto bello che si costruisce avendo un'unica insegnante per i primi anni dell'elementare. Da noi questo cambia dopo il primo elementare, quindi non c'è il stesso programma. Questo lo trovo molto bello. In grosso modo nelle due scuole ho notato sempre che gli europei imparano meglio i fatti, imparano meglio le teorie, imparano meglio in generale tutto ciò che è già stato stabilito o già stato scritto. E gli americani invece imparano meglio applicare la creatività, imparano sin dall'inizio un certo tipo di pragmatismo americano che serve molto, secondo me. Imparano a innovare, a come cambiare. Sì, infatti. Diciamo che in Europa, a mio avviso, è più importante che per il tuo insegnante, è più importante che riesci a dirgli cosa hanno scritto gli altri, cosa hanno pensato gli altri, cosa è già stato stabilito prima di te. Per l'insegnante americano, invece, è più importante, ok, dimostrami ciò che tu puoi fare con ciò che hanno scritto prima di te. Gunaidm, Elvan. Gunaidm. Come l'ho detto? Perfetto. Questo buongiorno in turco non è facilissimo per me. Elvan Uysal è l'ospite di oggi, giornalista e scrittrice turca. Io ero venuta in Italia che avevo meno pregiudizi nei confronti dei stranieri in generale. Però avevano un pregiudizio molto forte nei confronti dei turchi, non si conosceva bene, dicevano delle cose tipo ah, ma c'è chi mi ha detto, quando ho detto che sono turca, ma tu sei bella, cioè come se i turchi devono essere tutti brutti. Delle cose veramente da barzellette. E quali sono gli ultimi articoli che hai scritto dall'Italia? Cosa hai raccontato? Delle cose che hanno trovato più spazio sono stati un speciale sulla Dolce Vita, il film, e poi un altro sul carnevale, la tradizione di carnevale in Italia. Tutto il cinema italiano è molto apprezzato in Turchia, abbiamo un festival di cinema a Istanbul, ogni anno sicuramente c'è un regista, un omaggio a un regista italiano in un modo o l'altro. E poi ultimi anni, non so se avete seguito, ma il cinema turco è in grande ascesa, cioè i cineasti turchi spesso prendono i premi e spesso citano tra loro ispirazione soprattutto Antonioni. Oggi con noi Tobias Piller, che ringrazio per il suo tempo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Tobias è uno dei due corrispondenti del quotidiano più letto dai dirigenti tedeschi. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ho scritto un editoriale che purtroppo vedeva le cose in modo molto critico, perché vedevo molte nuvole sull'orizzonte dell'Italia e giustamente il titolo che avevo suggerito è stato ancora rafforzato dalla mia redazione, e alla fine si chiamava Senza speranza in Italia, perché l'argomento era un po' quello che l'Italia da 16 anni è fermo, perché ogni volta cambia il governo, ogni volta che si vota, ma poi non succede niente, e i gravi problemi che ha l'economia italiana, che la giustizia è così lenta, che l'amministrazione pubblica è così lenta, che ci sono ancora tradizioni forse troppo vecchie e troppo rigidi nelle fabbriche, si vede a Pomigliano. Questi problemi non sono stati indirizzati, attaccati, risolti. In conclusione, ho detto in questo mio articolo che il problema è che ci sono quelli del governo che al momento non riescono a governare, ma anche l'opposizione che dice tutto va bene pur di cacciare Berlusconi. Quando torni in Germania, ti senti un po' italiano? In tanti modi sì, nell'atteggiamento al modo di vivere, di mangiare e così via, assolutamente sì, mi manca un buon espresso in Germania. Comunque qualche volta anche mi mancano delle cose della Germania in Italia, perché organizzarsi la vita e anche tempo libero, sport e così, in Germania è molto molto più facile. E questa è una cosa che in una Roma caotica qualche volta certamente fa sognare, sì. Diamo il benvenuto in trasmissione a Gina Marques. Buongiorno, Gina. Buongiorno. Gina è la corrispondente brasiliana per Globo News e collabora come inviato speciale anche, non solo per la televisione, ma anche per il quotidiano brasiliano Folha de São Paulo. Da quanti anni sei in Italia, Gina? Da moltissimi, da 2 decadi. Immagino che essendo tu brasiliana avrai dovuto anche nei tuoi rapporti con gli italiani avere a che fare con dei cliché che gli italiani hanno sui brasiliani. Ti è capitato mai di dover chiarire alcuni aspetti o smentirli addirittura? Molte volte anche di smentire questi cliché, però una volta che mi hai stupito ero in spiaggia e parlavo con una donna che questa donna è stata in Brasile e lei mi diceva che ammirava tantissimo le donne brasiliane. Le ho domandato il perché, lei ha detto ad esempio di un tanga, le donne grasse in spiaggia, a Copacabana o altre spiagge, portano il tanga. Ho detto ma perché lei le ammira? Perché la donna mi ha spiegato che secondo lei era l'emancipazione perfetta della donna, cioè fregarsi del proprio corpo in funzione di farsi bello oppure nascondersi per lo sguardo maschile, si faceva vedere tutta, completa così com'era e senza proprio fregarsi dell'opinione dei maschi. E tu cosa hai risposto? Dunque, sono rimasta proprio sorpresa di questa interpretazione, però mi è piaciuta tantissimo. Cioè, oggi guardo le donne brasiliane grasse sulle spiagge con il tanga di modo diverso. Andiamo in un paese confinante, in uno dei giornali più prestigiosi e più seguiti del mondo, per vedere come viene raccontata l'Italia su Le Monde. Grazie anche al nostro ospite, si chiama Philippe Ridé. Buongiorno Philippe. Buongiorno. Tu hai detto, hai usato un'espressione, hai detto è un'Italia a pezzi. Intendevi dire è un'Italia rotta, un'Italia in crisi o è un'Italia che ha tanti tasselli di un mosaico? Cosa intendevi dire quando hai usato quell'espressione? Intendo dire, penso piuttosto a mosaica. Quando dice Italia a pezzi non è qualcosa di, non è una critica, penso che la realtà che ho scoperto è quella che quest'Italia non è un paese unico, non è un paese unito. Per esempio in Francia non è possibile di fare tutta la sua vita nella stessa città, di nascere di vivere e di morire nella stessa città. A un certo momento tutti i ragazzi di Francia devono per forza andare a Parigi per fare la loro professione, eccetera, eccetera. Ma in Italia qualcuno che è nato a Bologna può vivere, fare gli studi a Bologna, lavorare a Bologna e poi morire a Bologna. E questo è qualcosa che i francesi non sanno bene, non sanno a quel punto questo paese. È un paese che ha saputo resistere a una forma di unità e anche di imperialismo del centro rispetto ai confini. Beh, osservazioni decisamente originali, quelle di chi fa il giornalista da qua, racconta l'Italia all'estero. Abbiamo dato oggi una panoramica dei corrispondenti che abbiamo incontrato nel mese d'agosto. Tra pochissimo ci ritroviamo con Bianco o Nero, alcuni numeri, il telefono 800 24 00 24, per i messaggi sms 349 238 6666, il sondaggio sul sito www.radio24.it. La domanda di oggi: basta la tessera del tifoso per fermare la violenza nel mondo del calcio? Ancora buongiorno, Irene Zerbini, 34 minuti dopo le 8, un'emergenza in Italia. Si protrae da anni, infatti l'Italia sembra fallire dove gli altri in qualche modo sono riusciti, cioè eliminare la violenza ultra, riportare le famiglie negli stadi. Perché? Ora, dopo l'attacco degli ultra atalantini al ministro dell'interno, Roberto Maroni, naturalmente si è tornati a parlare di questo problema che sembra non sradicabile. Gli appassionati intanto giudicano la tessera del tifoso. Alcuni la giudicano una schedatura, altri temono che sia inutile. Gli ascoltatori di Radio 24 sono divisi, il 31% dice è un buon mezzo, un buon deterrente per la violenza, e gli altri invece, fino a questo punto, sul sito dove si vota per il sondaggio, hanno emesso un giudizio negativo. Con noi Alfredo Mantovano, sottosegretario del Ministero degli Interni, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno a voi. Senta, lei ieri ha parlato anche di un decreto sicurezza pronto per gli stadi, siamo alla vigilia del campionato, ce lo illustri, cosa prevede? Sì, intanto volevo precisare una cosa a proposito della vostra introduzione, non esiste neanche in questo settore, come in nessuno credo nella nostra vita sociale, in particolare nel mondo della sicurezza, la bacchetta magica, quindi nessuno da parte del governo, del ministro dell'interno in particolare, ha mai presentato l'attesto del tifoso come l'elemento risolutivo, ma come un importante elemento che si aggiunge a tanti altri in atto già da qualche anno. Io sarei perplesso sul dire che in Italia non è cambiato nulla, perché invece se confrontiamo la situazione attuale con quella di 10 anni fa, negli stadi troviamo gli steward al posto della polizia e dei carabinieri, e non è soltanto un fatto estetico, è anche un segno di civiltà, certo non completa, ma un passo in avanti significativo. Se guardiamo i dati segnalano episodi di violenza soprattutto all'interno degli stadi in fortissimo calo, allora proseguiamo su questa strada con uno strumento che non va nella direzione della schedatura, va nella direzione di premiare il tifoso, di premiare il sostenitore e di dissuadere dalla presenza all'interno degli stadi il violento professionale che utilizza lo stadio e la manifestazione sportiva soltanto come pretesto per svolgere attività che con lo sport non hanno nulla a che fare, hanno a che fare invece con giudici. E la violenza però a volte, Alfredo Mantovano, si è spostata dall'interno degli stadi alle strade antistanti, stazioni, itinerari per raggiungerlo questo stadio. E questo non è un fenomeno soltanto italiano, è già successo in Inghilterra, che spesso viene evocata come la patria dello sport tranquillo, sappiamo invece che spesso ultras inglesi scaricano la loro violenza nelle strade, lungo i percorsi, al di fuori degli stadi, ma la testa del tifoso è un contributo, ripeto, non la bacchetta magica, anche verso una riduzione della violenza al di fuori degli stadi, perché individuando dei percorsi con sconti, con studiati a seconda delle tifoserie, impedisce i contatti per esempio sulle autostrade o in alcune stazioni ferroviarie, e con gli incentivi connessi alla tessera permette di razionalizzare meglio gli spostamenti. Il decreto, rispondo alla sua domanda. Cosa contempla il decreto sicurezza? Il decreto parte da un presupposto, cioè quello che il 30 di giugno di quest'anno è scaduto, era misura a tempo, l'istituto della flagranza, dell'arresto in flagranza differita. Spiego, come tutti sanno, da qualche anno, prima dal ministro Pisano, poi dal ministro Amato, quindi due differenti governi con due differenti maggioranze hanno confermato questa misura, che è molto valida, non potendo spesso intervenire all'interno degli stadi, nelle curve, per bloccare episodi di violenza, per non creare disordini ancora maggiori, si visionano le immagini del settore interessato da questi episodi, ma questa visione ha bisogno di qualche ora. Questo strumento permette di effettuare l'arresto in presenza dei presupposti di legge a distanza di qualche ora dal fatto, e una sorta di flagranza che differita, però, sì, viene differita di qualche ora. È stato sempre introdotto come un provvedimento a tempo, questo tempo è scaduto, però poiché ha dato dei risultati estremamente positivi riteniamo di prorogarlo per qualche altro, per almeno un paio d'anni, forse anche di più, vedremo. E per fare questo ci vuole una legge, e poiché il campionato inizia domenica prossima c'è urgenza ed è necessario che questa legge sia immediatamente operativa, da ciò lo strumento del decreto legge. Vediamo poi, ci stiamo lavorando, se affiancare a questa misura altre che tutto ciò che è accaduto negli ultimi anni suggeriscono, per esempio gli steward, proprio perché svolgono una funzione delicata, particolarmente esposta, meritano una tutela giuridica per il lavoro che fanno connessa con la loro funzione. E come allora, quella degli agenti, assimilabili alla polizia, esempio, insomma, come tutele. Un aggravante particolare che riguarda le elezioni ad un agente di polizia in quanto pubblico ufficiale, non si vede perché questa stessa aggravante non debba essere stata applicata eventualmente ad aggressione agli steward. Quindi questi sono alcuni dei punti più significativi, però il testo è ancora in corso di elaborazione e poi ovviamente il Parlamento è sovrano, nel senso che potrà in una... Lei ha visto Interroma? No, non l'ho visto. E come spiega che ancora oggi sia stata possibile un'interruzione di quel tipo a causa dei facinorosi che comunque erano riusciti a introdurre petardi e fumogeni? Sì, guardi, qui, come le dicevo, primo, non esiste la bacchetta magica, secondo, vi è la necessità della piena collaborazione di tutti. Quando dico tutti, non faccio riferimento ovviamente all'episodio specifico perché non voglio collegarlo con un fatto per il quale ci sono ancora accertamenti e indagini in corso, ma tutti significa tutte le società, nessuna esclusa, i loro presidenti, gli amministratori del territorio, cioè perché il sistema funzioni è necessario che ognuno reciti la propria parte, basta che uno solo non la svolga fino in fondo perché ci siano delle smagliature nel sistema stesso, che però, ripeto, è in corso di formazione e io credo che ogni persona di buon senso possa constatare la diversità rispetto al passato. Insomma, tutti ricordiamo l'immagine del motorino scagliato dai gradini della tribuna. Queste immagini però sono immagini di archivio. È vero, però recentemente abbiamo visto Speziale, uno degli accusati per concorso in omicidio, per l'omicidio Raciti, seguire il Catania alla sua squadra. Questo ragazzo minorenne era stato colpito da Daspo e poi era stato condannato. Come mi spiega questa presenza allo stadio? Guardi, qui dovremmo aprire un capitolo che è quello del contributo dell'autorità giudiziaria nella piena applicazione di queste norme. È un contributo che ordinariamente c'è, qualche volta vi è un eccesso di comprensione. Il DASPO in Italia già ha dei minimi e dei massimi tutto sommato molto contenuti. In Inghilterra, il paese che, lo ripeto, spesso si evoca a confronto, il DASPO può arrivare fino a 10 anni e quando è operativo per 10 anni uno se lo scorda, anche soprattutto se ha commesso reati gravi, la possibilità di tornare allo stadio. Noi non siamo andati nel corso degli anni oltre questo limite perché sappiamo in Parlamento come va. Se ci fosse forse una sensibilità maggiore verso esigenze non di rigore ma di serietà, si potrebbe arrivare anche ai limiti inglesi. Grazie. Molto spesso però l'autorità giudiziaria pretende come presupposti per il DASPO i presupposti simili a quelli di un'ordinanza che priva della libertà. Naturalmente questo crea dei problemi operativi con i quali ci troviamo a fare i conti. A dover fare i conti, insomma. Segnalo da ultimo che arrivano delle proposte interessanti dalla stessa autorità giudiziaria, ne hanno parlato anche i media, la Procura di Napoli, per esempio, sulla base della propria esperienza mirata nella prevenzione del contrasto alla violenza degli stadi, immagina una serie di misure che contemplano anche precedenti differenti da quelli di violenza sportiva, come titoli ostativi ad andare allo stadio, e sono delle proposte interessanti sulle quali stiamo ragionando. Una sollecitazione che arriva da Napoli. Grazie ad Alfredo Mantovano, sottosegretario del Ministero degli Interni. Deve scappare, lo lasciamo andare. Ci ha fornito l'indicazione di quella che saranno le linee guida di questo decreto sicurezza e di queste nuove misure contro i violenti, perché il ministro dell'interno Maroni ha parlato di aggressione annunciata, ha parlato soprattutto di tolleranza zero. Buongiorno a Gabriele Marcotti. Buongiorno. Giornalista sportivo in Inghilterra, scrive per The Times, per la BBC, per il Corriere dello Sport, Wall Street Journal, Sunday Herald, La Stampa. Non finisco più qua se continuo con le tue collaborazioni, Gabriele. Quindi ti chiedo, viene citato spesso il modello inglese. Tu li vivi e scrivi e svolgi la tua attività da giornalista. Cos'è che gli italiani mancano di cogliere in questo modello inglese? Beh, innanzitutto bisogna prendere il presupposto che non è che l'Inghilterra sia un paese meno violento dell'Italia. Bisogna accettare il fatto che con queste leggi, queste normative si possono rendere gli stadi più sicuri con la repressione, facendo sì che i facinorosi non vadano allo stadio, ma non è che all'improvviso uno cura la società, semplicemente la violenza si trasferisce altrove, e questo è importante riconoscerlo e apprezzarlo. Poi soprattutto credo la grossa differenza che i club sono responsabili, perché esistono sia i DASPO che dà la polizia che i DASPO che danno i club stessi. I club hanno un forte interesse a far sì che questi vengano applicati, e poi soprattutto c'è la famosa certezza della pena, che trovo grottesco che in Italia a 24 ore dall'inizio del campionato non esista ancora questo decreto Pisanu amato. Abbiamo sentito poco fa che dice adesso il Parlamento dovrà rinnovarlo, aspettano fino a questo momento. Sì, inizia domani infatti, e domani sarà proprio Varese-Atalanta, non a caso Marone di Varese è stato attaccato a Bergamo, e ci risentiamo tra pochissimo, Marcotti, proprio per parlare anche di questa sicurezza alla pena, di questi principi che ispirano gli interventi inglesi e che non hanno e che hanno in qualche modo eliminato la piaga degli hooligans dagli stadi. Ci sarà con noi anche Maurizio Marinelli, buongiorno. Buongiorno a voi. Un poliziotto particolare, direttore del Centro Studi e Ricerca sulla Sicurezza Pubblica, insegna sociologia dello sport, tiene corsi di formazione per la polizia. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Ci voleva la voce di Maradona. Oggi stiamo parlando di calcio e di tessera del tifoso. Il sondaggio chiede: basterà per fermare la violenza nel mondo del calcio? I risultati dicono sì, fino a questo punto, si continua a votare fino alle 13, il 30% degli ascoltatori di Radio 24, no il 70%. Per le vostre telefonate 800 24 00 24, per i messaggi SMS 349 238 6666. Dunque Maurizio Marinelli, poliziotto particolare, l'abbiamo definito, con grande esperienza dentro gli stadi e soprattutto fuori, perché soprattutto fuori che si concentra il pericolo, Marinelli? Ma certamente, perché ormai con l'estromissione della polizia dall'interno del stadio, con la sostituzione degli steward, i poliziotti vengono impiegati soprattutto intorno allo stadio e lungo gli itinerari, quindi la battaglia, che l'obiettivo primario diventa ancora una volta il poliziotto, è sempre fuori dallo stadio. Ma vi sentite in qualche modo estromessi da questa nuova figura degli steward? Come l'avete accolta voi, agenti? Ma no, sicurissimamente bene, per un motivo molto semplice, perché il poliziotto che all'ingresso faceva la bonifica dello stadio o la perquisizione, visto con la divisa, con l'ubotte, con l'elmetto, dava l'impressione di questa antipatia già ancora prima di cominciare quello che poi sarebbe e sarà la battaglia, che era la battaglia all'interno dello stadio. Quindi la sostituzione è, come è avvenuto in Inghilterra, la sostituzione dei poliziotti per fare questi lavori, quindi il controllo dei biglietti e tutta questa attività da parte degli steward, è stato un passaggio positivo anche secondo voi della polizia. C'è con noi il direttore dello stadio di San Siro, Paolo Belotti. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, io volevo, ho ascoltato la vostra trasmissione con attenzione, sono d'accordo sostanzialmente su tutto. Non mi piace più sentire magari l'episodio del famoso motorino, che ormai è giurassico, perché da allora passi avanti se non sono stati fatti tantissimi. Senza dubbio, però concordi con me nel dire che è clamoroso, ovvio che si fissa nell'immagine collettiva, come hanno fatto a entrare con uno scooter. Se vuole ve lo spiego, perché magari così è interessante. Allora, no, ma ci spieghi se vuole Inter-Roma, cioè che così è più recente, non andiamo, come dice lei, al passato storico. Dunque il motorino, però un flash sul motorino vorrei farlo, perché effettivamente a quell'epoca le tifoserie, c'era la tradizione di far entrare i tifosi gli ultimi 10 minuti della partita, una tradizione che risale ai tempi di Mazzola e Rivera, e che adesso ovviamente non c'è più per motivi di sicurezza, che non sono solo motorino. Inter Roma, il suo stadio era assolutamente blindato, le forze dell'ordine a Milano, credo in tutta Italia, a Milano sono particolarmente sensibili e particolarmente preparate. Grossi scontri non ce ne sono stati, certamente è difficile impedire a circa 12.000 romanisti o tifosi, adesso io non voglio criminalizzare l'una o l'altra tifoseria, perché nella maggior parte dei casi sono comunque persone per bene, ci sono grossi, sì, sono dappertutto, hanno dato fuoco ai giornali, hanno compiuto atti vandalici ma di lieve entità, se devo essere sincero. Questo non significa che non ci siano questi personaggi, e che se lo stadio non fosse blindato e i decreti Amato-Pisano non fossero stati emanati a suo tempo, saremmo ancora al Far West. Quindi lei registra passi avanti, però le leggo così, per esempio, gli ascoltatori che amano il calcio e che ci stanno scrivendo degli sms, ci segnalano che secondo loro la tessera del tifoso non servirà a molto, è fumo negli occhi, serve la tolleranza zero e la pena certa di 3 anni, per esempio, per ogni episodio di violenza negli stadi. Ma guardate, io non voglio giudicare la tessera del tifoso, perché in fase sperimentale potrebbe essere, come dire, efficace, potrebbe non esserlo. Certamente può essere una buona iniziativa per mille altri motivi, non credo che serva, come dire, a stroncare la violenza. Invece la tolleranza zero, siccome noi siamo abituati a guardare all'estero, magari alle volte facciamo bene, alle volte no, sicuramente gli inglesi non sono meglio di noi, come ha detto prima il giornalista di The Times, sì. Assolutamente no, io ho visitato e frequentato gli stadi inglesi, quindi sono come noi. Però là chissà perché non ci sono fossati, barriere né nulla. Quindi lei interverrebbe lì. Il problema è proprio lì, cioè quando uno viene preso semplicemente perché insulta pesantemente un giocatore o l'allenatore, viene preso da 2 poliziotti, viene portato in camere di sicurezza all'interno dello stadio e i suoi 6 mesi, 8 mesi, 10 mesi di galera se li fa tutti. Da noi abbiamo decine e decine di prove di evidenze che questi signori il giorno dopo se ne stanno di nuovo a spasso e frequentano, chiaro, di nuovo gli stadi. Chiaro. È proprio lì il punto, la certezza della pena. Ma noi in Italia non manca nulla per essere come gli inglesi. Grazie a Paolo Belotti, è il direttore dello stadio di San Siro. Torniamo a Gabriele Marcotti, l'esempio inglese è proprio diventato l'icona di quello che si dovrebbe fare. Ci sono altri esempi virtuosi, comunque altre nazioni in cui si va allo stadio con le famiglie e ci si gode lo spettacolo anche altrove, ma concentriamoci con te Gabriele sull'esempio inglese. Siete passati appunto da una situazione decisamente tesa e che si ripeteva ogni volta che i club si dovevano incontrare sabato o domenica che fosse, a una situazione in cui si può andare tranquillamente con bambini. Quali sono stati gli ingredienti chiave che hanno funzionato in questo intervento deciso? Beh, innanzitutto posso dire un intervento che non ha funzionato, che hanno cercato di applicare la Thatcher nell'89 dopo Hillsborough. Cos'era? È stata l'introduzione proprio della tessera del tifoso, cioè di una specie di schedatura per tutti quelli che volevano andare allo stadio, e lì c'è stata una specie di sollevazione popolare sia a destra che a sinistra, non l'ha introdotto, quindi meno in Inghilterra questo non è stato un fattore. Bisogna pensare, questo è un paese dove tra l'altro non esistono neanche le carte di identità. Però ovviamente i fattori sono stati, oltre alla certezza della pena, gli stadi nuovi, tutti costruiti negli ultimi 15 anni. Perché è importante riammodernare le infrastrutture degli stadi? Esatto, questo rende tutto molto più facile. E poi c'è un altro fattore. Ma perché? Di cui... perché? Perché non sembra ovvio l'associazione modernizziamo gli stadi e avremo più sicurezza. Perché? Perché lo stadio nuovo ci ha posti tutti a sedere, quindi senza le gradinate è più facile da controllare sia per gli steward che per le forze dell'ordine. Poi perché comunque ci sono telecamere ovunque, applicate in maniera molto, molto logica, molto studiata, è molto più facile identificare i tifosi mentre entrano ed escono. E questi sono i fattori importanti. E poi c'è un altro fattore di cui purtroppo nessuno parla. La politica dei prezzi? La politica dei prezzi, cioè il fatto che se il prezzo medio per vedere una partita di Premier League 20 anni fa poteva essere tra i 5 e le 10 sterline. Adesso il prezzo minimo per esempio di Premier League a Londra è di 35 sterline, cioè 40-45 euro, con il risultato che i facinorosi e soprattutto i giovani, i teenager di età completa tra i 15, non so, posso arrivare ai 25-30 anni, che credo anche statisticamente sono quelli più propensi alla violenza, più a rischio, negli stadi inglesi non ci sono perché non possono permettersi di andare alla partita, e questo è un altro risvolto secondo me su cui vale la pena un po' riflettere. In Inghilterra, in Premier League, ci sono i tifosi più vecchi, tra virgolette, cioè una media di 43 anni. Non so se esatto. Questo è auspicabile, lo chiedo all'ascoltatore Luca da Firenze, buongiorno. Preso in causa, ho 56 anni e sono un tifoso, per cui fare parte di quella categoria che si può permettere il... Ok, perfetto. Mi trova completamente d'accordo sia l'intervento del giornalista sia l'intervento precedente, perché io ho l'esperienza di pluriennale di Stati Uniti, dove famiglie intere frequentano situazioni anche violente, premetto, perché non è certo un tifo tranquillo, non è certo un tifo da casa o da educande, però dove c'è una certezza del posto, una identificazione nei servizi, una possibilità anche di intervento rapido, perciò le strutture adeguate, le strutture nuove e gestite in maniera personale. Ma lei è d'accordo con la tessera del tifoso o no? Perché negli Stati Uniti non c'è la tessera del tifoso. No, la tessera del tifoso nasce quando c'ho bisogno di identificare chi partecipa. Se il biglietto è identificabile con un soggetto, non ho bisogno della tessera del tifoso. Quindi biglietto nominale per Luca da Firenze. Biglietto nominale è quello che è in questa linea, però d'accordo con strutture diverse, più moderne. Chiaro. Più fondibili. Grazie mille anche per questa testimonianza. Maurizio Marinelli, direttore del Centro Studi sulla Sicurezza Pubblica, per quel che riguarda gli agenti di polizia, avrete discusso in questi giorni di questa tessera del tifoso, naturalmente, un passo avanti? Ma certamente è un contributo. Se la tessera del tifoso è abbandonata a se stessa ed è fine a se stessa, certamente non porterà i frutti sperati. Se non si affiancherà un discorso culturale, formativo, e per quanto riguarda la polizia e per quanto riguarda i tifosi, le strutture dello stadio, tutti questi discorsi devono trovare concretezza. La formazione degli steward, certamente una figura dove gli si dia... Mi dia un numero per concludere, Maurizio Marinelli. Quanto costano questi interventi della polizia negli stadi Serie A, Serie B e leghe minori in un anno? Allora, i poliziotti impiegati allo stadio ogni domenica erano 8.000 negli anni scorsi, siamo passati ai 6.000 circa ogni domenica durante le ultime partite. Quindi parliamo di cifre intorno ai 200.000 poliziotti in un anno, che sottratti poi per quanto riguarda gli altri servizi è un costo per la società enorme. In Inghilterra invece questo è tutto demandato ai comuni, perché la polizia dipende dal comune e non più dallo Stato, quindi è un costo che gravita sulla collettività. Grazie Maurizio Marinelli, grazie a Gabriele Marcotti, grazie a Mantovano, sottosegretario al Ministero degli Interni, è stato con noi, grazie soprattutto ai miei eccellenti collaboratori Franco Piantanida, Margherita Aina, per aver reso possibile questa trasmissione, Peter Bescapè in regia. Vi saluto, mi congedo, ritornerà Alessandro Milan per l'edizione normale di 24 mattina, però con delle novità, dei cambiamenti che scoprirete da lunedì. Buona vita da Irene Zerbini.